Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio. Ieri Mihajlovic al Bologna, stamane Di Carlo al Chievo, notizia di poco fa. È stato sostituito, esonerato Beppe Iachini. Oggi pomeriggio Di Carlo, ex tecnico del Parma e prima ancora del Vicenza, verrà presentato a Veronello in occasione della ripresa degli allenamenti del Chievo. Nel frattempo c'è la presentazione di Mihajlovic al Bologna. Sentiamone un frammento. Mihajlovic al microfono di Emilio Buttaro. Bisogna lavorare, ecco, adesso, come ho detto e ripeto per millesima volta, in questi primi giorni sul piano psicologico dei ragazzi, perché comunque sono un po' demoralizzati, li ho visti anche domenica un po' abbattuti, e bisogna tirarli un po' su, e poi dopo bisogna lavorare molto anche sul campo, di non fare certi sbagli che hanno fatto nelle partite precedenti. Ecco, modulo, cioè, sicuramente sono quattro indietro, quella è l'unica cosa sicura. Poi davanti centrocampo vediamo, però modulo c'è, poi ci parlerà anche con ragazzi tutto, ma non credo che ci sono problemi, poi dopo si vedrà. Ecco, non è che sono Cappello, che ho uno che ha allenato 20 anni, però dico, anche tutti questi che hanno allenato da 15-20 anni c'è stato un giorno che hanno cominciato a allenare e poi sono arrivati, così è arrivato anche quel giorno per me. Hanno ragione che sono, come posso dire, che non sono esperto, anche se ho fatto due anni nell'Inter come secondo, e ti devo dire la verità, facendo secondo nell'Inter può essere anche più difficile che fare primo in qualche squadra in Serie A, con tutti i giocatori che ci sono, e gestione, tutti i casini che succedono in una grande società. Perciò comunque così tanto inesperto non ci sono, però gli facciamo credere che così, poi dopo a fine anno vediamo come va. Tra gli articoli più curiosi del martedì, che in genere è giorno particolarmente interessante di rassegna stampa, c'è senza dubbio quello di Fabio Verniano sulla Stampa, che parte dall'auto da fè domenicale di Cairo, che riascolterei brevemente in estrema sintesi. Ho veramente una marea di gente che mi dice: lei è un coglione. L'articolo comincia con l'articolo è titolato Cairo, la linea è calda, tifosi telefonatemi. Se la maratona chiama, scrive Fabio Verniano, Cairo risponde: potremmo tranquillamente scrivere qui di seguito il numero di telefono del patron Granata senza il timore di violare la sua privacy. Il numero personale del presidente è infatti ormai più digitato del 113 o del 118. I tifosi lo chiamavano durante il mercato estivo offrendo consigli per gli acquisti e continuano a inviargli valanghe di sms di solidarietà dopo gli ultimi torti arbitrali. Ha spiegato poi Cairo: ho usato domenica una parola forte, quella che avete appena ascoltato, per spiegare che continuando a stare zitto rischiavo davvero di fare una brutta figura. I tifosi invece con me sono sempre molto gentili, mi sostengono, elogiano la squadra, apprezzano la loro partecipazione e non ho intenzione di cambiare il numero di telefono, anche se a volte il sovraccarico mette fuori uso il mio apparecchio. Allora, risentiamo brevemente questo sovraccarico. Ho veramente una marea di gente che mi dice: lei è un coglione. Potrebbe essere della serie ripetita Juvent, no? Purché non diventi ripetita Juventus, perché a Torino, al Torino non la prenderebbero benissimo. Siamo già collegati con Fabio Tavelli. Fabio, buongiorno. Buongiorno, dilettante avrebbe detto lo Tito, che invece abbiamo visto a volte con 2, 3, 4, 5 telefonini. Certo, ma no, no, non escludo che Cairo per salvarsi ne abbia a sua volta una buona dotazione. Perché se come pare insomma, ha fatto il mercato estivo insieme con i tifosi, e già si capirebbe qualcosa di più, no? Si spiegano molte cose. Vabbè, dunque ci sono molti argomenti di calcio internazionale in questo martedì, ovviamente a cominciare dal doppio turno di Champions di stasera e di domani. Per non essere banali, se ci riusciamo, mi piacerebbe partire da un'immagine di questo fine settimana che ho visto da voi molto ripetuta, perché sembra una curiosità, in realtà nasconde un discorso tecnico e tattico molto molto interessante, e sto parlando del gol dello Stoke City. Beh, il gol, intanto lo Stoke City è una neopromossa ed è una squadra che sta non facendo bene come l'Hull City, però sta facendo comunque un buon campionato, visto che naviga nella zona medio-bassa, ma comunque media. E lo Stoke City sabato ha battuto l'Arsenal. La cosa curiosa è che tutti e due i gol segnati dallo Stoke City sono arrivati da fallo laterale, cioè da una rimessa in gioco con le mani. Allora, visto che era troppo curioso questo fatto, siamo andati a vedere come lo Stoke City segna tutti i suoi gol. Sì. E devo dirti che in maniera quasi sbalorditiva abbiamo scoperto che quasi il 50% delle realizzazioni dello Stoke City arrivano da rimessa in gioco con le mani. E arrivano tutte da questo centrocampista irlandese. Che il 50% hai detto, Fabio? Ma grosso modo sì, perché almeno 7-8 gol, poi è chiaro, su alcuni si può discutere, ma fondamentalmente sì. Arrivano tutti da rimesse laterali, tra l'altro tutte fatte da Rory Delap, che è questo centrocampista irlandese, che ha una rimessa in gioco potentissima, ma non solo potentissima, perché non basta la potenza a questo punto, perché va abbinata al fatto che lui, e qui da un punto di vista, non so che legge fisica stia sotto questo, però uno spiovente con i piedi può essere a volte, se non ben calciato, anche meno efficace di una bella rimessa in gioco, tesa. Forte, tesa, e che magari partendo da un'altezza che a questo punto è superiore ai 2 metri, perché Delap è grosso modo 1,85, se tu ci fai le braccia sono ben sopra i 2 metri, ben lanciata, con il fatto che tutti, almeno i giocatori dell'attacco, più i difensori centrali dello Stoke City, sono tutti dei marcantoni ben oltre il 1,80 m, tutti molto potenti fisicamente, loro si catapultano dentro quasi a valanga, mi vengono in mente le touche del rugby, e segnano tantissimi gol, oppure causano degli autogol, perché il primo gol di sabato è un autogol di Kolo Touré, perché da un lato quando lo Stoke gioca in casa e ha un fallo laterale a propria disposizione, lo stadio ribolle come se fosse una punizione dal limite. Le difese avversarie a questo punto sono terrorizzate, certo. C'è un caos che è organizzato da parte dello Stoke City, ma che è disorganizzato da parte degli avversari, tutti dentro, qualcosa succede, la prendo io, la prendi tu, la palla spesso viene pizzicata, prende direzioni diverse e questi vanno dentro. Devo dirti, il secondo gol dello Stoke City è un doppio colpo di petto da parte di un attaccante, quindi non una cosa che puoi provare in allenamento. Però è vero che la difesa dell'Arsenal è andata tantissime volte in difficoltà contro queste rimesse, e adesso chiunque affronti lo Stoke City forse preferisce prendere una punizione o un calcio d'angolo piuttosto che una rimessa laterale. Lo credo. Allora, breve parentesi, sia Fabio De Vicenza che Paolo Armantova che altri ancora mi correggono giustamente oggi la prima l'ho già detta, Di Carlo è un ex tecnico, è l'ex tecnico del Parma e del Mantova, del Vicenza era stato giocatore e capitano. Giocatore. E capitano, sì, ma non certamente ex tecnico del Vicenza. L'incidenza, tu hai parlato del 50%, che poi sia il 46 o il 51 poco no, importa. È comunque tantissimo. Ecco, perché lo dico? Perché nel calcio di oggi, ma non di oggi, nel calcio da almeno 20 anni a questa parte, l'incidenza delle situazioni della cosiddetta palla inattiva, e cioè punizioni, calci d'angolo, quindi lo sfruttamento di queste palle ferme è fondamentale, rappresenta una percentuale alta di realizzazioni. Se arriviamo a una percentuale addirittura superiore con le rimesse laterali, io credo che questo tale, lo Stoke si chiama, hai detto? Lo Stoke City, Delap, Rory Delap. Questo potrebbe diventare l'uomo mercato, nel senso che... Può essere un'arma, sì, Sì, lo so che è un paradosso, però lo è fino a un certo punto, proprio perché è sempre più difficile segnare su azione. E quindi se uno ha una risorsa del genere e praticamente crossa con le mani da qualunque distanza, è una grande risorsa. Guarda Gigi, hai detto benissimo, ormai sono tanti anni che i calci da fermo hanno soppiantato come a livello di maggioranza di situazioni di gol, i gol su azione. Credo che sia questo molto figlio del fatto che tutti giochino a zona e quindi sia diventato un po' più complicato segnare su azione. E viceversa, l'unica situazione nella quale si marca ancora, non tutti lo fanno, ma ancora si marca uomo, sia effettivamente quella del calcio da fermo. Detto questo, poi ci fu, tu certamente lo ricordi, un periodo 25 anni fa, quando in Coppa Italia si sperimentò la rimessa laterale con i piedi. E si pensava che facendo rimettere lateralmente il pallone con i piedi e quindi provocando dei cross, questo potesse essere un'idea che poi portasse più gol, poi in realtà non accadde questo. C'è stato anche chi ha sperimentato una quindicina d'anni fa la rimessa in gioco con la piroetta, sai, quelle che fanno alcuni giocatori tipo Oba Martins quando segnano, con una piroetta per avere una sorta di lancio più lungo. Mi ricordo uno che si chiamava Risto Callaste, che era un giocatore della ex Unione Sovietica e faceva dei rilanci pazzeschi, però poi alla fine anche questo non basta, cioè non basta fare una buona rimessa laterale, bisogna che ci sia un'organizzazione tale per cui 3-4 giocatori sappiano perfettamente che cosa devono fare, come devono muoversi. In questo credo che il livello più alto di organizzazione, almeno per quanto ne vedo io, ne vedo anche abbastanza, sia quello del Catania di Zenga. Catania di Zenga è una squadra che mi ha impressionato in maniera clamorosa per i movimenti che fanno sulle rimesse laterali, sui calci d'angolo, sulle punizioni. Sembra una squadra di football americano davvero, e credo che non ci sia in questo momento una squadra così allenata come il Catania di Zenga. Tra le numerose domande che arrivano per te ce n'è una firmata Mark, molto molto curiosa, molto curiosa per me perlomeno, che davvero ignoravo questa cosa. Dice: ho notato che in Premier League il girone di ritorno non è uguale a quello di andata, ma la sequenza delle giornate è completamente diversa. Io sono caduto dal mio povero pero, come quasi sempre mi accade in questi casi. È vera sta storia? Allora, è vera, ma non è vero che è completamente, è in parte diversa, nel senso che ci sono alcune giornate, non sono così tante come dice Mark, che però nota una cosa giusta, nel senso che il girone d'andata viene effettivamente stilato nella maniera canonica, il girone di ritorno diciamo che non è speculare, perché ci sono 5, 6, a volte 7 giornate che vengono rimescolate. Questo è in parte figlio del fatto che gli inglesi comunque devono distinguersi, devono comunque avere qualcosa di diverso dagli altri, e in parte figlio del fatto che questo rimescolamento di giornate avvenga sotto le feste, intorno al periodo natalizio, quando la Premier League concentra gli impegni, e quindi al posto di anticipare, dico un esempio, tra la 19esima e la 20esima, magari ci sono 7 giorni canonici tra la 19esima e la 20esima, per mettere una giornata in più loro non anticipano di qualche giorno la 20esima, vanno a pescare una giornata interessante del girone di ritorno e la piazzano in mezzo, quindi tu hai la 19esima, poi hai la 7ª di ritorno e poi hai la 20esima di andata. Questo procura in me e in te, credo, un certo sconcerto. Per loro è abbastanza normale, così facendo riempiono il periodo che per noi è sostanzialmente vuoto per il campionato italiano, perché ha 2 settimane, se non 3, anzi 3 settimane di pausa. Loro lo riempiono in maniera copiosa, sotto Natale giocano anche 5-6 volte, e questo per esigenze televisive, per esigenze di spettacolo e tutto il resto a loro fa particolarmente gioco. Quindi è vero, quello che ha notato Mark è vero, non è totalmente ribaltata, però insomma ci sono delle situazioni strane. Non come in Scozia, ad esempio, dove nelle ultime giornate la federazione prende il campionato, lo divide a metà, e quindi le prime 6 si rincontrano di nuovo una volta e fanno una sorta di playoff e di playout mascherati, perché non sono playoff o playout, certo, ma praticamente si rincontrano le prime e si rincontrano le ultime. La Premier League non fa così. Scrive Marione Scalia da Milano: incuriosito da quello che dicevate, ho appena visto su YouTube una rimessa di questo Delap, spaventoso, quasi 40 metri di gittata. Sì, ma non è quello, non è, a parer mio non è solo quello. Poi tra l'altro quanto è tesa la palla, dicevi? Sì, l'efficacia è superiore quando il fallo laterale non è troppo vicino alla bandierina, perché così taglia direttamente verso la porta, io credo che ci siano molti giocatori che con i piedi crossino peggio di come Delap crossa con le mani. Ora tu mi dirai, le mani sono degli arti più facili da però a pallone gioca con i piedi, per cui certo, ci sarà un motivo. Difatti, quando di un giocatore si dice sembra che te l'abbia messa con le mani, si dice un grande complimento, evidentemente, sì, no? Perché con le mani è leggermente più facile giocare con i piedi. Esempio, il rapporto di coefficiente di difficoltà che c'è tra il basket e il calcio, ma non entriamo. Sai, crossare un pallone in mezzo, non voglio dire che siano capaci tutti, però se basta tirarla alta, più o meno, insomma, ci mettiamo lì, lo facciamo anche noi. Se invece i grandi crossatori, ad esempio, io non so che cosa farà Beckham nel Milan, però quando la palla è ferma o è molto lenta, Beckham è ancora uno dei 5 migliori giocatori del mondo, se non tra i primi 3, a mettertela dentro tagliata a giro. Da fermo sicuro. Non c'è dubbio. Se il calcio non si giocasse in movimento, sarebbe sempre stato uno dei primi 5, forse uno dei primi 3. Sì, sì. Al mondo, che è un altro discorso. Torniamo in compagnia di Fabio Tavelli e liquidiamo velocemente, direi, la giornata di campionato internazionale della scorsa domenica, prendendo per sommi capi quello che di più significativo è accaduto e partendo, ahimè, da questo bruttissimo episodio che riguarda Messi. Sì, l'episodio è molto brutto, devo dirti anche che va un po' più documentato, nel senso che per adesso siamo a livello di un fermo immagine. Noi abbiamo trasmesso la partita tra il Malaga e il Barcellona. Per chi non lo sapesse, Messi ha sputato in direzione di Duda, un giocatore della squadra avversaria. La partita l'ha vinta 4-1 il Barcellona. Messi è stato come sempre fantastico, perché è in un periodo di forma eccezionale, e però anche qui la stampa più che altro di Madrid, perché poi io ho cercato anche su vari siti e su giornali di Barcellona, la cosa viene molto molto ridimensionata, invece a Madrid viene decisamente più pompata, se mi passi il termine. Insomma, Messi potrebbe essere squalificato per questo sputo rivolto nei confronti di Duda. Ripeto, noi abbiamo trasmesso la partita, l'abbiamo cercata e ricercata, ma un episodio così non l'abbiamo vista, cioè non c'è un'inquadratura e non c'è una dinamica che ci faccia vedere in maniera chiara quello che è successo. Potrebbe anche ridimensionarsi, potrebbe essere lo sputo in direzione di, insomma. No, ma è molto probabile, perché le foto che girano poi su internet e anche sui giornali fanno vedere che effettivamente Messi sputa, però da lì la prospettiva non è certamente quella corretta. La direzione può essere quella, però da lì a squalificare un giocatore per una cosa del genere. Sarei contento di sapere che Messi non ha fatto una cosa così schifosa, di cui anch'io, tra l'altro, non è nemmeno gradevole parlare. Era un diciamo che è dovere di cronaca. Sì. Insisto che in sintesi sul campionato, prendendo l'Europa, cosa sceglieresti? Prendendo l'Europa nel senso di oggi in Champions o prendendo l'Europa complessiva sulla domenica scorsa? Guarda, io ti darei la vittoria del Tottenham al 90esimo, abbondante, contro il Liverpool, perché il Liverpool aveva vinto contro il Chelsea, con questi 3 punti stava primo da solo, giocava contro il Tottenham che qualche sera prima aveva pareggiato 4-4 il derby contro l'Arsenal, mentre era pesantemente sotto, era sotto 4-2 all'84esimo. Il Tottenham è ancora ultimo, però da quando è arrivato Juan de Ramos sono arrivate le prime vittorie e le prime dimostrazioni che questa non è una squadra che può arrivare ultima in questo campionato, e quindi io credo che mai come questa volta, e tu sai quanto io sia generalmente contrario ai cambi di allenatore, mai come questa volta il cambio di allenatore ha fatto bene, perché Redknapp non può avere certamente la bacchetta magica e in 8-10 giorni trasformare una squadra. Vuol dire che i giocatori non si trovavano più con l'altro, e quindi a quel punto lì la motivazione è forte da parte della società, perché non è possibile onestamente cambiare il volto di una squadra in così poco tempo. Vuol dire che la squadra non giocava più come sapeva e non gradiva più essere allenata da quella persona. Troppo giusto. Tra poco i vostri interventi all'800 24 00 24. Stefano scrive da Cremona: interessante quell'opinione sul Catania, potete spiegare meglio che movimenti fanno? Diventerebbe un po' lungo. Sì, no, soprattutto perdonami Gigi, alla radio è difficile, perché non ti posso far vedere le immagini, però Zenga prese la squadra l'anno scorso sul finale campionato, io andai a commentare Udinese-Catania e fui davvero impressionato dal fatto, Zenga la allenava da 15 giorni, 20 giorni non di più, e fui davvero impressionato dal fatto che sui calci da fermo loro facevano dei movimenti ma quasi vorticosi, nel senso che in 6-7 si muovevano, oppure sulle punizioni si mettevano cercando il blocco, cercando il tagliafuori, cose mutuate dal basket, infatti. Mutuati dalla pallacanestro e anche dal football americano, e oddio, poi non quella partita lì non gli disse bene, perché non accade mai nulla di pericoloso su queste cose. però sono veramente sì, organizzatissimi. Cioè, io mi invito a guardarle le partite del Catania. Magari 9 volte su 10 fai fumo anziché arrosto, muovi tanta polvere e poi invece c'è la volta in cui il blocco riesce. Sempre aspettando di trovare poi invece uno che crossi con le mani come quello di cui si parlava prima. Sì. Arriviamo a stasera, è ovvio che il clou per quanto ci riguarda sono le partite della Roma e dell'Inter. Sul resto del fronte che cosa ci segnaleresti in particolare? Ma ti segnalerei il Liverpool che gioca con l'Atletico Madrid, mi sembra la partita più interessante, quella del gruppo D, anche se il Liverpool è messo bene, l'Atletico ha ritrovato la vena realizzativa di Agüero in settimana nella Liga e dovrebbe essere la partita più interessante a livello complessivo di qualità di gioco, perché per il resto devo dire nel girone dell'Inter la partita tra il Werder Bremen e il Panathinaikos è decisiva, però non è una di quelle per la quali uno forse spende la serata. Il Barcellona ha dato 5 gol al Basilea in trasferta, sta viaggiando a una media spaventosa, fin troppo bella forse sì. per poter continuare, non credo poi che l'ambiente possa destabilizzarsi per questa cosa di Messi e quindi... Che tra l'altro dovrebbe partire dalla panchina, così, oddio, partire dalla panchina avendo poi sempre davanti Bojan e Toe e Henry, Beh, no. Però vedi, questa è una filosofia che Guardiola sta applicando ed è diversa ad esempio da quella di Mourinho sta facendo giocare Ibrahimovic quasi anche le amichevoli del giovedì e invece Guardiola sta un po' ruotando, poi certo. È vero. Chi abbia ragione, io ruoterei, però non lo so. Anch'io ruoterei. Ieri Mourinho ha spiegato che finché un giocatore sta bene non si vede perché non dovrebbe giocare. Secondo me lo si vede benissimo in un calcio così usurante come quello di oggi, però evidentemente sono punti di vista e il suo conta leggermente di più. Mi incuriosisce molto l'idea di come possa andare a finire tra i rumeni e il Bordeaux, perché è da lì poi che la Roma può capire se riesce ancora a farcela o meno. Sì, anche perché sono poi le due squadre che la Roma affronterà nelle prossime due partite, sapendo che la Roma col Bordeaux ha un risultato positivo all'andata ma ha un risultato negativo contro il Cluj. Io sinceramente non so quanto possa andare avanti il Cluj ad essere competitivo in questo girone. È anche vero che il Bordeaux non è una squadra di quelle che ti possono mettere troppa paura. C'è anche loro hanno anche il problema di un Cavenaghi che si sta lamentando moltissimo con Blanc perché non, a parer suo non viene utilizzato al meglio. Quindi ci sono un po' di turbolenze. È ovvio che la Roma deve da un lato non perdere, possibilmente vincere contro il Chelsea, dall'altro aspettarsi un risultato buono dall'altra partita. Insomma, se questi pareggiassero e la Roma vincesse... È molto banale evidentemente, però è quello che alla Roma potrebbe far gioco, perché questo è uno dei pochissimi gironi che è ancora in bilico, perché la maggior parte degli altri, io credo che tra oggi e domani, non dico la metà dei gironi, però una buona percentuale, una percentuale alta potrebbe avere già si già dovrebbe, delle qualificate, si dovrebbe chiarire. Ci sentiamo giovedì con il ministro degli esteri per vedere se questa previsione è azzeccata. Grazie Gigi. Chiudiamo il collegamento, grazie Fabio, con Fabio Tavelli. Vi dicevo degli esoneri in Serie A, ce n'era stato uno in 9 giornate e poi 2 in 24 ore. Vi ricordo che stamane Di Carlo è subentrato alla guida del Chievo al posto di Iachini, come ieri Mihajlovic a Bologna al posto di Arrigoni. Sono 3 tecnici, quindi sono 4 invece già in Serie B, perché Cosmi era stato sostituito da Sonetti già a settembre. Sempre a fine settembre Cagnem ha lasciato il posto a Guidolin al Parma e poi la staffetta di Costanzo Chiarenza all'Ascoli e quella tra Brucato e Costacurta la scorsa settimana. Anortosis, Inter e soprattutto Roma-Chelsea stasera, poi domani Real Juventus e Fiorentina-Bayern. Qualche frammento di Vigilia alternato poi alle vostre voci, ai vostri interventi che ho visto già prenotati. Mourinho a proposito di modulo. Troppe volte sarà così sempre. Secondo qualche opinione che ho letto, quando Patrick ha segnato il secondo gol a Regina, io dovevo mettere in campo Materazzi e Burdisso subito per difendere il 2-0, ma con me non è così. E questo era Mourinho. Sentiamo Spalletti sul suo futuro a Roma, mi pare. Non l'ho paura, il mio futuro è a Roma, e Roma E poi per quanto riguarda la vita normale, mi sono trovato benissimo e soprattutto si è trovata bene la mia famiglia. Questo per smentire che ci fossero state minacce o comunque trattamenti incivili, o che comunque insomma, le disavventure alla Roma fossero tracimate addirittura nei confronti a scuola, nei confronti dei figli di Spalletti. I primi vostri interventi di oggi. Paolo da Torino, buongiorno. Buongiorno signor Garanzini, vogliamo fare una domanda che è una curiosità, sì, che esula un po' da questo contesto. Ho sentito dire che in Serie A si segna meno, volevo sapere se era vero e una sua opinione se così fosse. Grazie, l'ascolto per radio. Grazie a lei, è vero, è nettamente vero. Adesso il computo esatto dei gol, insomma, basta lanciarlo in questi carri, ce lo fa Flavio Suardi nel giro di pochi minuti. I gol sono in netta diminuzione, lei calcoli che la capolista, per esempio, fino ad oggi, il Milan, cioè ha preso in 15 partite, in 10 partite ha preso 7 gol, che è una media più che accettabile, ma ne ha segnati soltanto 15 e sono abbastanza pochi. Non c'è una squadra, non ci sono squadre che abbiano brillato particolarmente in attacco. La produzione è in calo, addirittura sono quasi dimezzati i calci di rigore e in compenso è aumentata molto la percentuale di trasformazione dei calci di rigore, perché, come si ricordava ieri, quello sbagliato da Kakà è stato il primo errore dal dischetto dopo 24 rigori consecutivi, la serie iniziale più lunga della storia dei campionati. E meno male che appunto si sfruttano i calci di rigore per tenere un pochino più alto il livello di realizzazione, che sennò sarebbe davvero basso ed è in netto calando. Quello che le posso dire, in attesa poi dei numeri esatti, è che da quando esiste il campionato a 20 squadre, dopo 10 giornate non si era mai segnato poco come quest'anno. Da Genova, Claudio, buongiorno. Buongiorno Garanzini, volevo parlare della Roma. Sì. E io ho sentito, poi magari ho sentito male, che stasera la Roma rischierà Totti. Ora io lo trovo un rischio esageratamente grosso, perché innanzitutto Totti non è in condizioni ottimali per giocare, e poi da quello che si vede stasera a Roma ci sarà un campo, rischia di esserci un campo veramente infame, perché comunque continua a piovere e quindi è ancora più a rischio, così con una formazione come il Chelsea che ha parecchia forza fisica. Ecco, non vorrei che poi magari la Roma rischiasse di perderlo per altro tempo in campionato, dove sinceramente ne ha molto molto più bisogno. Ma siamo sicuri che ne abbia molto molto più bisogno in campionato e non invece in Coppa per tentare l'impresa di qualificarsi? Su questo io non sarei tanto convinto, perché mi pare che il campionato sia, realisticamente non posso credere che la Roma rischierà davvero la retrocessione, no? A gioco lungo, anche se adesso è lì sul baratro a pieno titolo. Non credo, cioè il campionato è andato, se per quanto riguarda la vetta e per quanto riguarda i piazzamenti che contano, così a spanne, salvo una rimonta che, vedendo come sta la squadra e anche aspettando miglioramenti direi inevitabili, comunque insomma non credo consentano grandi margini di speranza. A quel punto tanto vale, secondo me, giocarsi il possibile per la qualificazione in Coppa, perché poi hai due mesi e mezzo di sosta e poi intervenire a gennaio, ammesso poi che il bilancio lo consente. Insomma, hai dei margini per provare a giocarti qualcosa di più in Coppa. Il campionato mi pare poco, quindi io farei una valutazione diversa dalla sua. Il discorso sanitario invece è perfettamente legittimo, ma lì bisogna fidarsi un po' di quello, insomma, di quello che decideranno di concerto i medici, il giocatore e Spalletti. È vero che finora qualche recupero affrettato Totti l'hanno fatto fare, oppure Totti l'ha fatto, speriamo che non sia un altro caso di quelli. Da Roma, Fabrizio, buongiorno. Buongiorno a lei Garanzini. Dica. Noi ci siamo sentiti un mesetto fa dopo Lazio-Lecce e io le avevo detto se lei insomma ritenesse opportuno per la Lazio avere una punta di peso, visto che con le squadre chiuse ha difficoltà appunto a segnare, e lei mi rispose che probabilmente in quel momento era stato un problema di mentalità da parte della Lazio. Allora io le ripropongo di nuovo la domanda alla luce di Lazio-Napoli, Lazio-Catania, Bologna-Lazio e appunto ancora Lazio-Lecce, se secondo lei ancora la Lazio non abbia bisogno di una punta di peso. L'ascolto. ascolto per radio. Non ho idea, Fabrizio, a parte il fatto che se la punta di peso non ce l'ha, non è che se la può inventare. La punta di peso per come sta giocando la Lazio è spesso e volentieri Pandev, nel senso che quando la Lazio riesce quel gioco avvolgente in velocità, qualche spunto di Zárate, qualcosa che arriva dagli esterni, okay, Pandev spesso e volentieri va a fare da boa centrale, no? per poi girarsi lui in conclusione oppure per servire degli assist all'indietro ai suoi, ma se intende un centravanti torre, Granò non ce l'ha e quindi non farà di necessità virtù, a parte il fatto che poi magari ci risentiamo tra un altro mese, anche se non mi sembra uno di quei temi esattamente universali. Dovrebbero essere 226 i gol realizzati fino ad ora in Serie A e 226 oggettivamente in, facciamo presto il conto, in 10 giornate, che vuol dire in 100 partite, sono pochi, sono in 99 partite, visto che manca Roma-Sampdoria da recuperare, ma sono davvero abbastanza pochi. Ancora un ascoltatore, poi torniamo a sentire qualche voce. Nello da Napoli, buongiorno. Buongiorno. Dica, Nello. Senta, io chiamo da Napoli, sono chiaramente un tifoso del Napoli. E allora volevo da lei una opinione terza sull'atteggiamento dell'arbitro Rocchi nella partita Milan-Napoli. Perché tanta severità con un giocatore correttissimo come Maggio e tanta debolezza di fronte agli interventi dei giocatori del Milan, in testa a tutti Gattuso e Ambrosini, che hanno terminato poi, diciamo, la partita? Qual è l'opinione sua? Nello, l'opinione mia terza l'ho espressa ieri, sinceramente, non è che possiamo andare avanti tutti i giorni a menarla con gli stessi argomenti, no? Stiamo cercando di così coinvolgere il maggior numero possibile di persone. In estrema sintesi le dirò che non c'è nessuna severità nei confronti di Maggio, nel senso che Maggio ha commesso due falli da ammonizione e in entrambi i casi è stato sanzionato, quindi sgombrerei quel campo, lascerei ben ingombro invece l'altro campo, perché sono d'accordo, l'arbitro ha perdonato un'entrata di Zambrotta su Hamsik, che comunque ha costretto Hamsik ad uscire, che potrebbe essere involontaria, anche se una scommessa non la farei. Ha certamente perdonato un'entrata volontaria di Ronaldinho su Santa Croce, che ha costretto a sua volta Santa Croce a uscire, e sono due pezzi grossi del Napoli usciti per infortuni, diciamo, non, insomma, uno forse casuale, l'altro certamente no, ma soprattutto ha permesso di tutto a Gattuso, e su questo non c'è dubbio. Di tutto, dal punto di vista delle scorrettezze di gioco, sì, ma con niente di eclatante, ma dal punto di vista del comportamento è abbastanza incredibile, certamente eccessivo, certamente gratuito. Io mi aspettavo alla fine addirittura che mi sembrava uno spot a un certo punto, no? Sa che Gattuso si diletta in queste cose, mi aspettavo che alla fine Rocchi, l'arbitro uscendolo, gli dicesse life is now, così almeno la combinazione era completa. Non è andata così, meno male, ci siamo risparmiati questo finale. Sentiamo cosa pensa Mourinho di Adriano, come vede il futuro immediato di Adriano. Io spero che Adriano ha ancora la possibilità di fare qualcosa di importante per noi in Champions League. Questo significa che non c'è Adriano, ma abbiamo due partite per giocare con Werder Bremen e con Panathinaikos. E per che ragione Adriano non sarà con noi in questa partita? Solo non sarà se non vuoi, chi vuole. Sono... Io vi chiedo scusa, maestà, sono distratto da un gioco di messaggi di cui poi vi darò conto, adesso devo rintracciarli, era fantastico addirittura, perché un signore ha scritto comunque sei proprio e poi al femminile un epiteto pesantino, mi sono chiesto, non è che non ne arrivino ogni tanto, mi sono chiesto perché al femminile, e dopo alcuni messaggi già mi scusi tanto, era indirizzato alla mia amorosa, e voi capite bene che nei pari di quella amorosa tanto di buon umore non sarei. Ha chiamato Marco da Milano, buongiorno. Buongiorno. Dica. Io sono un tifoso romanista, no? Sono un tifoso romanista, ha detto? Romanista, sì. E volevo parlare un attimino di Spalletti, no? Sì. Sull'errore che continua a commettere. Io penso che dopo la partenza di Juli, Mancini, Taddei a mezzo servizio, sarebbe anche ora che cambiasse modo di giocare, perché non ha più gli uomini. Abbiamo comprato Menez che è una mezza punta, Battista che è una mezza punta, Vucinic che è una mezza punta. Non abbiamo più gli ali per fare quel gioco che facciamo l'anno scorso. Lei cosa ne pensa? Ma io penso che sì, Spalletti è probabilmente un pochino schiavo di un meccanismo peraltro perfetto che aveva creato, che ha creato dal niente e che aveva portato ad altissimi livelli con poco, perché tutti i giocatori che lei ha nominato, Mancini compreso, secondo me i fenomeni sono diversi e quindi è ovvio che uno resti un pochino legato a quello che ha fatto la sua fortuna. Poi può essere un uomo in qualche caso, può essere uno schema, un modulo in un altro, questo in parte è vero, ma certamente non basta a spiegare questa defiance prolungata della Roma. Sentiamone ancora uno prima del traffico. Fausto, la provincia di Milano, buongiorno. Buongiorno, mi scusi, io Dica. Vorrei parlare con voi sulle rimesse laterali che avete parlato prima, quelle famose rimesse lunghe, sì, tipo pirolette. Io ho fatto l'arbitro per 15 anni e da regolamento quelle rimesse non sono consentite, perché il regolamento parla chiaro: il giocatore deve stare con tutti e due i piedi ben appoggiati al terreno e poi rimettere da dietro la testa e rimettere il pallone. Quelle sono tutte cose, secondo me, che un arbitro dovrebbe vedere. Ma questo qua dello Stoke City non rimette regolarmente il pallone? Sì, guardi, io quello dello Stoke City non entro in merito, ma e allora mi scusi, Fausto, io capisco, lo so, ho capito cosa lei ci sta raccontando, che ogni tanto c'è qualcuno che cerca di fare queste grandi rimesse, eccetera, non tenendo i piedi in posizione corretta, queste rimesse non sono laterali. Ma quello dello Stoke City, però, io l'ho viste, quelle rimesse sono assolutamente regolari, ed era di questo che si parlava, non del fatto che sui campetti qualcuno ogni tanto giochi a fare il discobolo e sbagli i movimenti. Collina ha fermato Calcagno e Chiocchi, che sono i due assistenti che hanno commesso i due errori più gravi domenica, e cioè il gol annullato al Torino a Genova e il rigore concesso al Milan contro il Napoli. Questi due assistenti, ripeto, sono stati fermati e torneranno in pista tra qualche partita, una volta compiute le riflessioni sugli errori, come usa nella categoria arbitrale in questi casi. In ogni caso Collina ha riconosciuto gli errori gravi di questi, perché vengono fermati gli assistenti solo per errori gravi, non per cose veniali imputabili a moviole più o meno severe o più o meno al servizio D, e sappiamo che moviole al servizio D ce ne sono. Questi erano evidentemente per Collina degli errori gravi. Ci sono tre ascoltatori già collegati che sentiranno, mi auguro, volentieri insieme a tutti noi la puntata di oggi dedicata al ripasso della storia. Nicola Filippone. Sembra ieri. 4 novembre 1964. L'Italia di Edmondo Fabbri comincia con il piede giusto il percorso di qualificazione ai mondiali del 66. Allo stadio Ferraris di Genova, gli azzurri, trascinati da Mazzola e Rivera, travolgono per 6-1 la Finlandia. È la gara di esordio di Armando Picchi, 29 anni, libero e capitano della grande Inter di Elenio Herrera. Ma in azzurro Picchi stenterà a trovare spazio. Fabbri, infatti, non gli darà molte altre chance, mentre sotto la gestione Valcareggi un infortunio gli impedirà di conquistare il campionato europeo del 1968. Torniamo in collegamento con i nostri amici della provincia di Venezia. Alessandro, buongiorno. Buongiorno Garanzini. Dica. Volevo un suo parere a riguardo Mihajlovic, un ottimo giocatore, ma come allenatore no, attualmente non ha dimostrato praticamente niente. Mi chiedevo se secondo lei, che su queste cose qua di solito non sbaglia neanche mai, non ci fosse la sponsorizzazione dell'Inter per levarsi dai piedi magari qualche ingaggio o qualcosa. A pensar bene si fa sempre in tempo, Alessandro. Allora, primo, non è vero che ne azzecco qualcuna e qualcun'altra sbaglio, come tutti d'altra parte. Non mi sarei mai rivolto a Mihajlovic per ragioni di persona, non ho una grande simpatia per questa persona, per dei trascorsi sgradevolissimi, non personali, trascorsi professionali suoi sgradevolissimi da calciatore. Da allenatore, sì, penso che indubbiamente qualche mossa, insomma, come dire, per liberarsi almeno da un onere contrattuale ci sia stato. E lo vedremo prossimamente, perché se Mihajlovic sarà seguito in prestito o comunque a condizioni favorevoli da qualche giocatore interista, è possibile che questa sia una chiave di lettura. Detto questo, lei dice non ha dei trascorsi particolari. Beh, per forza, non ha mai allenato, come farebbe ad avere dei trascorsi? Non li ha né nel bene né nel male, quindi secondo me bisogna aspettare a giudicarlo. Leggo notizie inquietanti in arrivo da Firenze, non tanto per Firenze e i fiorentini quanto per i tifosi del Bayern, perché la città è in allerta perché sono in arrivo degli ultra del Bayern. Dunque sono attesi, leggo, a Firenze, lo informa, c'è una nota apposita del prefetto De Martino dopo una riunione al comitato provinciale per l'ordine pubblico di stamani. Sono attesi a Firenze circa 2700 tifosi tedeschi che giungeranno con 26 pullman, poi 3 aerei e circa 700 persone in auto. È previsto anche l'arrivo di una cinquantina di ultra. Motivo per cui i controlli saranno particolarmente rigorosi, considerato che alcuni di loro si sono resi protagonisti di intemperanze in una recente partita in Spagna. Speriamo ben. Luigi da Forlì, buongiorno. Buongiorno. Volevo fare una considerazione e avere una sua opinione sulla Juventus, perché secondo me quest'anno ha una squadra di una forza impressionante, a parte, diciamo, fisica intendo. La piccola disavventura di quelle due o tre partite perse, però io l'ho vista giocare a inizio campionato e anche ultimamente ha secondo me un bagaglio tecnico e anche proprio fisicamente una forza superiore in Italia sicuramente, ma diciamo anche per poter competere in Europa. Luigi, io estrapolerei il suo intervento, lo invierei a Blanc, Cobolli, Gigli e Ranieri per la loro imperitura gratitudine. E ci tenevo a tornare su un fatto che nei giorni scorsi, insomma, non dico sia passato inosservato, ma non ha suscitato, secondo me, il rumore che meritava, e cioè l'episodio di fine partita di Reggio Calabria, quando Mourinho si è fermato con un bimbo disabile. Mourinho lo ha riraccontato ieri. Per farvi capire perché mi trovo a disagio in Italia, torno ancora su un fatto, ha detto Mourinho, e poi non ne parlerò mai più. A Reggio, finita la partita, ho dato a un bambino un crocefisso che tenevo in tasca da quando avevo vinto la Champions. Per me voleva dire tanto, ma l'ho dato a quel bambino. Sono subito stato attaccato senza neanche il beneficio del dubbio. Si è detto che gli avevo dato una moneta. Ecco, se volete saperlo, questo è il mio modo di sentirmi in Italia. Devo dire che in quell'occasione ad attaccare gratuitamente e secondo me vergognosamente Mourinho era stato il sindaco di Reggio Calabria Scopelliti, così come ad attaccarlo in maniera altrettanto gratuita e assai più volgare ancora era stato l'amministratore legato del Catania Lo Monaco di recente. Voi sapete che non ho un particolare fine nei confronti di Mourinho, ma ogni tanto arrivano, sarei tentato di dire per fortuna, anche se in realtà è una grave sfortuna, arrivano persone come il sindaco di Reggio Calabria o come l'amministratore legato del Catania a rivalutarne grandemente la figura. Ripeto, un bellissimo gesto di Mourinho, di grande affetto e di grande sensibilità, trasformato in una cosa di rara volgarità, violentando oltretutto la verità. Antonio da Parma, buongiorno. Salve, buongiorno. Dica. Le volevo dire una cosa. Il fallo da espulsione, cioè l'espulsione di un giocatore, per me nel calcio penalizza troppo la squadra. Cioè andrebbe fatto come magari nel rugby, 5 o 10 minuti, e poi rientri in campo. E poi se si rigioca la partita, armi pari. In quei 10 minuti, se li sfrutti bene, se non li sfrutti, ammi. Secondo me le cose cambiano in bene. Secondo me. Non so, secondo lei? Secondo lei? secondo me no, nel modo più assoluto. Il rugby e l'hockey si tengano le loro regole, nel calcio se ti comporti male o se, soprattutto se fai male un avversario, vai fuori. Mi sembra che non sia proprio il caso di intervenire da questo punto di vista. Marco ha chiamato da Bologna, buongiorno. Buongiorno a lei, dottore. Dica. Due cose velocissime. La prima, io sono di Bologna, chiaramente in questo momento sto molto male. Sì. Andiamo velocissimi però, perché siamo in chiusura. Il problema di base è questo qua: gli allenatori. Io non capisco perché in Italia si cambia continuamente allenatore, sempre e mai, voglio dire, dei ragionamenti alla Milan o alla Manchester o agli sport professionisti americani. Uno. Seconda cosa, velocissimo, sulla rimessa laterale: perché non la facciamo calciando e non con le mani? Grazie. Ma perché dobbiamo continuare a cambiare i regolamenti? L'ascoltatore di prima vuole l'espulsione a tempo, lei vuole rimessi laterali con i piedi. Insomma, è così bello com'è il calcio che non vedo davvero quale sia tutta questa fregola di volerlo cambiare. Grazie a Filippo Auregi in regia, a Flavio Suani in redazione, grazie a tutti gli intervenuti, a tutti gli ascoltatori. Giornale Radio.